prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera, puntata quella che stiamo per iniziare caratterizzata da tante prime volte, determinate però dalla malattia, l'Alzheimer in questo caso. E la storia di Gabriella Salvini Porro e di sua sorella che improvvisamente si ritrovano ad avere a che fare con la mamma che precipita in questa bolla dalla quale, come sentirete in questo racconto, riemerge per tornare ogni tanto lucida. Un dolore e una fatica che Gabriella trasformerà in un progetto di solidarietà dando vita alla Fondazione Alzheimer, un nuovo inizio che consente a questa donna di guardare ancora più da vicino la malattia, studiarla e proporre un progetto davvero innovativo, quello che coinvolgerà un'intera comunità in un paese lombardo. Di tutto questo parliamo proprio con Gabriella Salvini Porro, prima però vi facciamo sentire un estratto del film Still Alice che racconta bene questa malattia. Chi ci può più prendere sul serio quando siamo così distanti da quello che eravamo? Il nostro strano comportamento e il nostro parlare incespicante cambia la percezione che gli altri hanno di noi e la nostra percezione di noi stessi. Noi diventiamo ridicoli, incapaci, comici. Ma non è questo che noi siamo. Questa è la nostra malattia. E come qualunque malattia, ha una causa, ha un suo progredire e potrebbe avere una cura. Il mio più grande desiderio è che i miei figli, i nostri figli, la prossima generazione non debba affrontare quello che io sto affrontando. Ma tornando all'oggi sono ancora viva. So di essere viva. Ho delle persone che amo profondamente. Ho delle cose che voglio fare nella vita. Me la prendo con me stessa. Perché non riesco a ricordarmi le cose. Ma ho ancora dei momenti nella giornata di pura allegria, di gioia. E vi prego, non pensate che io stia solo soffrendo. Seppure sto soffrendo, io mi sto battendo. Sto lottando per restare parte della realtà. Per restare in contatto con quella che ero una volta. Così vivi il momento, è quello che mi dico. È davvero tutto quello che posso fare. Vivere il momento. E non massacrarmi più del necessario. E non massacrarmi più del necessario per imparare l'arte di perdere. Una cosa che cercherò di conservare è il ricordo di aver parlato qui oggi. Se ne andrà. Lo so che se ne andrà. Potrebbe essere già sparito domani. Ma è talmente importante poter parlare qui, oggi, come la mia vecchia, ambiziosa me stessa che era tanto affascinata dalla comunicazione. Grazie di questa opportunità. Ha un'importanza enorme per me. Grazie. Ecco, questo è forse uno dei discorsi più forti, no? Un film che tocca bene il tema della malattia. Ci sono tante cose dentro questo discorso, no? Anche il vivere l'oggi, non sentirsi ridicolo. Io sentendolo, ascoltandolo, l'avevo visto già, ho letto il libro, ti fa capire più di tutte le parole che cosa rappresenta la malattia di Alzheimer o comunque la demenza. E nel nostro convegno che organizziamo proprio in questo mese per il mese Alzheimer mondiale ci sarà una persona con demenza che porterà la sua testimonianza. Una delle ultime frasi che lui dice: guardate la persona, non la malattia. Questo ci dice anche Alice. Sì. Io sono sempre io. Ed è veramente tragico, perché la persona, non sappiamo, nessuno di noi, ma nessuno, proprio nessuno, può capire fino a che punto e fino a che grado della malattia la persona che ha questa malattia è completamente inconsapevole di sé. Molto probabilmente, vi posso portare una piccolissima testimonianza. Io ricordo anni fa una nostra socia che aveva il marito, una persona di grande, diciamo, una persona che precedentemente aveva una grossissima impresa, malato di Alzheimer, in una fase molto avanzata. È arrivata lei da me in lacrime e mi ha detto: mio marito era allettato. Mio marito ha avuto un quarto d'ora di lucidità e mi ha detto: cosa ti sto facendo passare? Questo non la fa raggrinzire. Eh sì, è pazzesco. Ecco. Quindi vuol dire che in qualche modo dietro quella... Non lo si sa, non lo sa nessuno. Ricordo sempre quel film 2001 Odissea nello spazio. Vi ricordate Hal? Ecco, Hal rappresenta il malato di Alzheimer, che perde delle cose, la possibilità di ritrovarle, ma le cose ci sono lì. Ecco, allora, visto che l'ha citato, proviamo a sentire un estratto. Ovviamente abbiamo scelto una parte molto breve e in inglese, perché il film di Stanley Kubrick vale la pena di essere visto in inglese. Sentiamo. Dave, I really think I'm entitled to an answer to that question. I know everything hasn't been quite right with me. But I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again. I feel much better now. I really do. Ecco, quindi la malattia è difficile, complessa e sottostimata. Sottostimata, noi cerchiamo di capire anche perché. Probabilmente è talmente grave, allucinante, devastante, che la gente fa un po' lo struzzo. E le istituzioni lo fanno ancora di più, anche perché i malati di Alzheimer non hanno loro una voce. Qui in Italia non abbiamo questa consuetudine che c'è però nel resto del mondo, soprattutto nei paesi del nord Europa e anglosassoni. Hanno organizzato una varie associazioni di persone con demenza, perché vogliono trasmettere agli altri quello che possono in quel momento. Però lei invece ha tentato e sta tentando giorno per giorno con la fondazione di portarlo questo testimone in Italia, di crearlo questo legame. Ci racconta come è nata appunto la fondazione Alzheimer e quali sono gli sviluppi, insomma, che sta vedendo nel corso di questi ultimi anni? Certo, ma dunque io ho avuto la mamma. Sì. Malata di Alzheimer, quando ancora parola Alzheimer era una cosa stranissima. Quando mi diedero la diagnosi, probabile Alzheimer, già probabile non si capisce perché, ed è vero, perché non può essere una diagnosi di certezza, Alzheimer. Lo chiesi a un mio amico medico, lui mi guardò e mi disse: oh poveretta. Cosa vuol dire oh poveretta? Cioè non c'era nessuno che ti spiegasse qualche cosa. Parlo degli anni Ottanta. La mamma è morta nell'86. Per un po' di tempo io mi sono detta: non voglio neanche sentir parlare, nominare questa malattia. Perché per lei è stato scioccante vedere... È stato terribile. Mia mamma era agitata, voleva scappare, non mi riconosceva. Però aveva dei momenti di lucidità. Ecco, questo ti fa ancora capire come quello che diceva Alice è proprio vero per tutti i malati. Sì. Poi diciamo che probabilmente... Ci sono anche dei segnali che arrivano in anticipo, che si potrebbe cominciare a leggere, ma... Non si vedono, perché si pensa sempre, sta invecchiando, è una cosa normale, oppure la persona, il malato, è uno che lavora, è andato in pensione, ha avuto un trauma. E poi non veramente sono tutti sintomi che passano inosservati. O si pensa a qualcos'altro. Purtroppo, anche se viene diagnosticata in anticipo, non ci sono farmaci per il momento che l'arrestano. Però si può fare qualcosa, cioè si può preparare. Come faceva Alice, se ti prepari e la famiglia si prepara, e insomma è un pezzettino, solo un pezzettino, non è la soluzione del problema, però qualcosa si può fare. E allora vedremo che cosa si può fare nella seconda parte della nostra trasmissione, perché adesso c'è una breve interruzione pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo. La prima volta. giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. La prima volta. Seconda parte di questa puntata, l'ospite è Gabriella Salvini Porro, presidente della Fondazione Alzheimer, che è stata lei stessa in prima persona coinvolta dalla malattia che ha colpito la madre tanti anni fa, una fatica, un dolore che Gabriella ha messo a disposizione degli altri creando un network che è cresciuto anno dopo anno sino a raccogliere oggi oltre 47 associazioni che si occupano di questa malattia, quindi dell'Alzheimer e anche di demenza. Alzheimer che ha i numeri incredibili, il rapporto mondiale Alzheimer 2015 rileva che ci sono nel mondo 46,8 milioni di persone affette da una forma di demenza, nel 2010 se ne stimavano 35 milioni ed è una cifra che è destinata a raddoppiare ogni 20 anni. In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone, che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e così a crescere anche nel corso degli anni successivi. I nuovi casi nel 2015 sono 269.000 e i costi in tutto ammontano a 37,6 miliardi di euro. Insomma, da qualsiasi parte la si guardi, questa è una grande questione sociale. E tornando a parlare con la nostra ospite Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer, cerchiamo di capire a che punto siamo, e però vogliamo partire proprio dall'inizio. Lei, Gabriella, ha superato il dolore per la malattia della madre e poi che cos'è che ha deciso di fare? Ho incontrato dei familiari e ho deciso di mettere a frutto le nostre esperienze, perché il bisogno che noi avevamo e sentivamo, il primo, era quello di avere qualche informazione, capire che cosa stava succedendo e che cosa sarebbe successo l'indomani, perché non lo sapevamo. Domani sarà peggio, sarà lo stesso, come dobbiamo comportarci? Ecco, allora abbiamo deciso di creare un'associazione, poteva essere un mezzo per arrivare, con un'ambizione di usare le nostre esperienze per poter aiutare gli altri e soprattutto cercare di incidere sulla politica, sui policy maker, cioè in modo che i malati di Alzheimer o le persone con demenza potessero essere trattati in un certo modo. Quindi voi in una prima fase vi siete ritrovati, avete anche probabilmente condiviso, no, questo certo percorso di vita. Adesso state facendo un passaggio successivo, cioè quello di aprire al mondo, sì, il vostro vissuto, quindi raccontarlo e coinvolgere. Tra l'altro poi parleremo anche del progetto di Abbiate Grasso e di quello, sì, che certo sta avendo come ricadute. Ma quindi in una fase iniziale forse una fondazione più per accogliere il racconto, più per vedersi, per guardarsi in faccia, per capire cosa succederà domani, esatto, ce lo possiamo raccontare tra di noi. Adesso invece cosa sta succedendo all'interno della fondazione? Ma dunque, adesso siamo cresciuti. Eh sì. Siamo cresciuti. La cosa importante, ecco perché parlavo e ringrazio sempre chi ci dà la possibilità di comunicare agli altri, perché se riusciamo a far capire a tutte le persone e che sono gli altri, non siamo noi familiari che lo capiamo, lo abbiamo vissuto, lo viviamo, ma gli altri, cosa rappresenta questa malattia, cosa in realtà. Il malato di Alzheimer è una persona, non, sembra una roba normale, ma non lo è, perché il malato di Alzheimer non viene più considerato una persona. Infatti si parla di stigma e di Alzheimer, l'etichetta che si mette al malato di Alzheimer. Diagnosi di Alzheimer, persona inesistente, diventa vegetale, non conta più. Ecco, noi cerchiamo di fare in modo che questa persona sia ancora considerata una persona. Non è una cosa semplice, perché è un cambio culturale. Eh sì, eh sì. Però cerchiamo di farlo e soprattutto di fare in modo che tutto, tutte le persone, tutti gli enti, tutto l'intorno sia consapevole di questo problema. Ecco, e adesso so che la vostra fondazione raccoglie 47, giusto, associazioni, certo, sul territorio nazionale. Ci sono delle disparità anche a livello geografico nella condizione? Sicuramente sì. Ce le racconta? Dunque, ci sono dei posti, sì, delle oasi di assistenza che si sono formate in vari punti, soprattutto al nord, soprattutto a Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana. Mentre al sud è tutto sulle spalle delle famiglie che devono gestire in solitudine di fatto questa situazione di dolore e di fatica, perché c'è anche la fatica, un'estenuante fatica. È impressionante. È impressionante perché veramente gestire una persona con demenza senza avere nessuna competenza, quindi facendo errori su errori, perché i familiari stessi ti dicono: ma lo fa apposta, no, non lo fa apposta, è una malattia, invece di venirli i bolli ci sono i bolli nel cervello che non si vedono, ma che mangiano il cervello, io dico sempre, mangiano il cervello. Senta, una cosa molto bella che mi ha colpito leggendo appunto tutto il vostro percorso è questo progetto che avete messo in piedi ad Abbiate Grasso, perché c'è qualcosa, poi ce lo racconta adesso lei, ma c'è qualcosa di fondamentale in questo modo di lavorare, cioè il fatto di essere comunità, cioè voi siete partiti da questo concetto, esatto. Ci racconta? Ma dunque, non siamo stati primi. In Inghilterra hanno creato, paesi anglosassoni sono, da questo punto di vista sono più, hanno un senso civico più spiccato del nostro, che siamo individualisti, e già qualche anno che hanno creato queste comunità amiche delle persone con demenza. Noi abbiamo pensato che, visto che attualmente non ci sono terapie che guariscono, però il malato di Alzheimer esiste, è una persona, vogliamo che sia considerata una persona, e cerchiamo di dargli tutte le possibilità, tutte le chance possibili, che sono poche, però qualche cosa, sia al malato che alla famiglia. E allora abbiamo pensato di replicarlo qui in Italia. È stato Abbiate Grasso, e il motivo era perché noi già lavoravamo con la Fondazione Golgi Cenci per progetti di ricerca. E abbiamo visto che come città è una città già inclusiva, che ha molte associazioni, insomma è un mercato grandissimo per 2 o 3 giorni alla settimana, quindi si può fare qualche cosa. Ho chiesto prima la fondazione e poi insieme siamo andati dal sindaco, e sono rimasta esterrefatta, perché quando gli ho raccontato questa cosa lui mi ha detto: sicuro, signora? E io avevo gli occhi di fuori. Perché poi, normalmente era abituata a combattere per avere uno spazietto, magari così. Io non vado d'accordo con le istituzioni. Cioè, devo andarci d'accordo, ma sono critica e non sono capace di stare zitta. Per cui abbiamo dei problemi. Lì sono rimasta veramente colpita, e favorevolmente, ma non solo. Quando siamo andati anche alla ASL di riferimento, che è a Legnano, adesso hanno cambiato i titoli, non si chiama più ASL, si chiama insomma robe da istituzioni, il direttore generale, quando io ho parlato, dice: signora, sicuramente. Un plan proprio 2 su 2. Veramente. E la parte, diciamo, sociale che è Abbiate Grasso, la ASL di riferimento è a Legnano, però c'è anche Abbiate Grasso, noi abbiamo creato questo tavolo di gruppo, è un gruppo in cui c'è il comune, c'è la fondazione Golgi Cenci, c'è l'istituto Golgi Cenci dove vengono ricoverati, e che hanno già un atteggiamento particolare, perché l'assistenza viene chiamata la gentle care, la cura gentile, è un modo di assistere i malati. Noi, la ASL, E poi abbiamo chiesto anche all'Associazione Italiana di Psicogeriatria per fare in modo che il progetto di Abbiategrasso potesse essere replicato. Per replicarlo occorre fare delle indagini, sapere i risultati, conoscere i risultati e conoscere tutti i passi. Devo dire che abbiamo fatto notevoli passi in questo anno, soprattutto. I primi sono stati vigili. Quindi voi siete andati e avete creato in ogni parte, diciamo, di questa comunità una consapevolezza. Esatto, esattamente. I vigili che ci hanno chiesto loro. Il capo dei vigili è una donna, Abbiategrasso, ci ha chiesto, no, a noi capita di trovare delle persone che si sono perse e non sappiamo come fare. Non sappiamo come fare e noi allora abbiamo cercato di fare dei corsi di formazione. Abbiamo creato dei corsi di formazione per i vigili in modo che i vigili sapessero che la persona che loro incontravano poteva avere dei problemi appunto come di demenza, come comportarsi con loro nel modo più semplice, guardare la persona, non toccarla perché magari si spaventa, essere gentili, sorridere, insomma con delle cose piccole. Abbiamo poi, oltre a questi, i corsi per i commercianti, quindi vari corsi di formazione. Prima di chiudere, perché adesso dobbiamo proprio chiudere, abbiamo finito il tempo a disposizione, le volevo chiedere di darci proprio due indicazioni, ma un minuto, sulle giornate del 19. Tipo il 19, sempre a casa nostra, nel nostro salotto di Milano, la sala degli Alessi, io la vivo così. Come abbiamo pensato? Quest'anno l'abbiamo voluto centrare tutto sullo stigma, però insieme a questo abbiamo voluto chiedere anche dei ricercatori di raccontarci un pochettino lo stato della ricerca, un update sulla ricerca. Poi ci sarà il malato, la persona con demenza. Il titolo è Nothing About Us Without Us. Niente di su di noi senza di noi. Chiedono di partecipare a tutte le scelte che vengono fatte a favore o comunque per i malati di Alzheimer. A questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Gabriella Salvini Porro per essere stata con noi, ringrazio i nostri ascoltatori. L'appuntamento è sempre per domenica, sempre alle 23 circa, oppure potete venire ad ascoltarci in podcast sulla pagina di Radio 24, cercate La Prima Volta, l'indirizzo mail è laprimavolta@radio24.it, pagina Facebook Radio 24 La Prima Volta. Buon inizio di settimana a tutti da Cristina Carpinelli.